Al Volga non si arriva, lo speciale di Van Loon in 4 puntate per gli 80 anni dalla battaglia di Stalingrado. La battaglia di Stalingrado è la battaglia più importante della Seconda Guerra Mondiale, evento centrale per il conflitto bellico e per la costruzione dell'identità antifascista internazionale. È stata la battaglia decisiva che ha segnato la svolta della guerra. Da quel momento in poi inizia infatti la ritirata dei nazisti. In ogni antifascista il mito di Stalingrado risuona. Van Loon si interroga su come parlare di una guerra nello stesso territorio in cui un'altra è in corso. Infatti, oggi, gennaio 2023, la Russia non ha cessato la guerra contro l'Ucraina. Parole come antifascismo, patria, denazificazione sono totalmente sconvolte dallo scenario della guerra di Putin e sembrano così lontane da un certo immaginario antifascista. Come sono cambiate le parole pace e guerra, quali sono i luoghi e i confini delle guerre passate e presenti? Sotto una certa confusione lessicale non abbiamo risposte semplici da propaganda o da talk show, ma un sacco di domande. La memoria è qualcosa di profondamente vivo e radicato nel presente, pur riguardando un pezzo del nostro passato. Parlare della memoria della battaglia di Stalingrado, quindi, non può che farci fare i conti con il nazismo e lo stalinismo dell'epoca, ma anche con che cosa siano la Russia e il putinismo di oggi. La parata che si è tenuta il 2 febbraio 2023 a Volgograd, il nome preso da Stalingrado con la destalinizzazione, ce li fa capire in maniera chiara. L'ottantesimo della vittoria dell'Armata Rossa sui nazisti è stato celebrato da una sfilata di truppe in divisa dell'epoca, da un volo di biplani a N2 e addirittura dalla polizia nei panni dell'NKVD. Giovanni Savino ha parlato di reinterpretazione della storia al fine di creare coinvolgimento emotivo. La creazione di una memoria passa attraverso la mitizzazione di fatti e persone. Un passaggio alle volte quasi necessario per degli eventi fortemente traumatici. In questo senso è utile quello che ci ha raccontato Antonella Salomoni, storica e professoressa dell'Università della Calabria, a proposito dell'eroicizzazione e del ruolo di Stalingrado nella memoria sovietica subito dopo il 45. Certo, la battaglia di Stalingrado è, diciamo, il culmine di questo di processo di eroicizzazione del contrasto e della resistenza all'invasione tedesca. Poi nel dopoguerra, ecco, Stalingrado è un esempio marcante della eroicizzazione delle città che resistono, perché in Unione Sovietica già a partire dal 1 maggio del 45 viene stilato il titolo onorifico di città eroina e Stalingrado è dunque fra le prime città eroine, sono Leningrado perché ha avuto questa enorme resistenza, Stalingrado, sono cinque inizialmente, poi diciamo il riconoscimento verrà attribuito anche ad altre città, quindi diventa davvero un simbolo che coinvolge i letterati, insomma ci sono famosissimi romanzi intorno alla resistenza di Stalingrado, da quello di Vassili Grossman che è stato tradotto di recente anche in Italia da Delfi, al romanzo Nelle trincee di Stalingrado di Viktor Nekrasov, che è un romanzo del 46 che fu stampato in milioni di esemplari, tradotto in oltre 40 lingue compreso l'italiano già fra il 46 e il 47, quindi è davvero un esempio marcante. Poi peraltro ricordiamo che anche dal punto di vista monumentalistico una delle più grandi statue, uno dei più grandi, meglio, complessi monumentali imponente, sfarzose proprio a Stalingrado, è realizzato fra il 59 e il 67, il titolo stesso La madre patria chiama, con punto esclamativo, questa è la denominazione di questo complesso monumentale sfarzoso, davvero sfarzoso. Poi Stalingrado conosce anche questa vicenda della ridenominazione della città, perché con la destalinizzazione poi nel 61 la città viene ribattezzata e quindi nel quadro del programma di destalinizzazione prenderà il nome di Volgograd, e questa è una scelta ancora oggi molto controversa, proprio in ragione del valore simbolico del toponimo, e quindi se ne è discusso molto negli ultimi anni. Il nostro focus è stato la battaglia di Stalingrado. Ma per comprenderne veramente il significato, anche simbolico, è bene allontanarci da quel campo di battaglia e ricordare che, più in generale, la Seconda Guerra Mondiale è stato teatro di massacri di civili, di odio razziale e di crimini di guerra, che già allora avevano guadagnato un triste primato. La storiografia ha sottolineato come la guerra contro l'Unione Sovietica venne concepita in modo totalmente nuovo rispetto alle politiche di conquista e occupazione nazista degli altri paesi europei. Con l'operazione Barbarossa si vogliono istigare i soldati a concepire la guerra come un conflitto razziale. Non a caso, la propaganda nazista raccontava le unità partigiane come gruppi di russi guidati da ebrei. In questo quadro generale, la coscienza della vittoria è un fenomeno anche identitario per il popolo russo. Ce ne parla Andrea Borelli, assegnista di ricerca presso l'Università della Calabria, che nel 2021 ha pubblicato «Gorbaciov e la riunificazione della Germania. L'impatto della perestroica sul comunismo 1985-1990 con Viella». Chiaramente la Seconda Guerra Mondiale è tout court un momento che poi diventa, diciamo, mito identitario sentito maggiormente da parte del popolo sovietico, nonostante il tentativo di Stalin di non far passare in secondo piano le origini rivoluzionarie del regime, poi sostanzialmente negli anni 50-60 è il mito della grande guerra patriottica che segna l'identità sovietica. All'interno di questa identità legata a quel ricordo, ovviamente la battaglia di Stalingrado ha un posto speciale. Direi, non saprei dire se è esattamente troppo al di sopra di tante altre questioni, come ad esempio l'assedio di Leningrado, che pure è sentito molto, però ovviamente la battaglia di Stalingrado, il suo significato, la prima sconfitta, diciamo, anche simbolica dell'esercito nazista, la svolta che è stata per la guerra, questo i sovietici avevano sempre insistito, anche in serie storiografica, per dire. Allora si segnalava sempre la battaglia di Stalingrado come l'evento chiave che aveva poi aperto alla riscossa sovietica, alla sconfitta del nazifascismo. Perciò, al di là delle memorie, la battaglia di Stalingrado ha un ruolo importante, pure perché nella narrazione pubblica del regime sovietico viene segnalato come un momento di svolta. Ovviamente cambia, nel senso che appunto all'inizio ha una sua importanza, però, che può sembrare paradossale, ma senza essere esageratamente, diciamo, accreditata dal regime di Stalin, poi invece dagli anni 60, anni 70 diventa un evento che viene ricordato sempre. Ogni anno c'è un grande museo poi che viene costruito a Volgograd, perché poi cambia anche nome, come è noto, no? Stalingrado non si chiama più Stalingrado, si chiama Volgograd, perché è sul Volga, una città sul Volga, c'è un grande museo e quindi, diciamo, c'è poi tutta una costruzione, una ricostruzione di quel mito che diventa fruibile alla popolazione anche attraverso questa grande opera monumentale, diciamo, che dire museo sarebbe dire poco. Vi invito, insomma, anche a guardare su internet, cioè tutta una costruzione monumentale con un'enorme statua della madre patria, che è probabilmente una delle statue più alte che esistono al mondo, e poi tutto un complesso monumentale, quindi sicuramente ha un ruolo speciale nella memoria del paese e anche nelle abitudini dei russi, perché anche oggi quello è uno dei musei più visitati in Russia ed è soprattutto visitato dai russi e dai cittadini degli ex paesi sovietici, diciamo. Stalingrado fu uno shock per tutti i soldati e gli ufficiali tedeschi, e questa esperienza è rimasta ben impressa nelle loro menti per il resto della guerra in Europa. Si può infatti delineare una congiunzione tra le stragi italiane e l'esperienza tedesca della guerra in Russia. Walter Reeder, ufficiale delle SS colpevole, tra le altre cose, della strage di Marzabotto, nella sua relazione scritta in attesa di giudizio nel carcere di Bologna, così disse: «Ogni casa, anche se abitata da civili non combattenti, venne usata come fortezza, dove i partigiani, le donne e i bambini mostravano vita pacifica e da dove, con raffiche di mitragliatrici, sparavano alle spalle delle truppe tedesche transitanti, dalle quali le stesse donne e ragazzi partecipavano, quali attivi combattenti, con le armi alla mano, sull'esempio dei battaglioni femminili russi». Nei suoi 1000 giorni a seguito dell'Armata Rossa, l'unico libro che Vassili Grossman portò con sé fu Guerra e Pace di Tolstoi. Guerra e Pace è il riferimento per gli scrittori e la cultura russa, il romanzo capace di identificare un'epoca, quella delle guerre napoleoniche, e di legarla strettamente agli assoluti sulla guerra e sulle relazioni umane. Stalingrado, il libro di Grossman pubblicato per la prima volta in italiano da Adelphi nel 2022, vuole fare la stessa operazione. partire dalla guerra ai nazisti e raccontare l'epopea del popolo russo, il suo carattere, a partire dalle vicende di una famiglia allargata. Ma vuole anche essere una celebrazione delle conquiste sociali del comunismo, oltre che la vittoria della Seconda Guerra Mondiale. Stalingrado deriva dai taccuini di guerra di Grossman e dalla loro trasformazione nei reportage per Krasnaya Zvezda, quotidiano dell'Armata Rossa di cui era corrispondente al fronte. Il libro è un'operazione editoriale a tutti gli effetti, perché la sua pubblicazione effettiva sulla rivista letteraria Novi Mir fu possibile solo dopo un importante lavoro di revisione richiesto dal direttore della rivista, il poeta Aleksandr Tardovskij. Questo rimaneggiamento però non è tanto una semplice questione di censura politica. Gli stessi editori, infatti, erano coscienti di quello che doveva essere Stalingrado, e cioè la grande epopea vittoriosa del popolo russo. Derubricare tutto a una classica operazione di censura fa forse perdere di vista il senso del libro, anche se sicuramente qualcosa è stato fatto per renderlo più in linea con i dettami dello stalinismo. Vita e destino, quindi, è, se vogliamo, più libero, sicuramente più valido da un punto di vista letterario, e continua la stessa sagra familiare. Ma qui Grossman riflette forse più profondamente sulla crudeltà, sulla violenza del Novecento. L'Olocausto ha inevitabilmente trasformato il senso stesso di raccontare le vite di donne e uomini. Konstantin Simonov nasce nel 1915 a Pietroburgo, in una famiglia della piccola aristocrazia travolta dalla rivoluzione del 17, e già da adolescente diventa un fido seguace del regime sovietico. Riesce a nascondere la sua origine sociale e si trasforma in uno zelante devoto del culto di Stalin, il che gli consente di scalare rapidamente le organizzazioni culturali del partito e di far parte dell'Accademia Russa degli Scrittori dal 1938. Oltre alle relazioni e ai saggi ispirati alle operazioni militari che vive in prima persona, Simonov scrive molte poesie di propaganda destinate alle truppe sovietiche impegnate sui fronti di guerra. Parlerà infatti spesso del dovere di un soldato nei confronti del suo popolo e della madrepatria. Per tutto il periodo della guerra è inviato al fronte con il grado di colonnello e sarà presente a Berlino durante la firma della resa incondizionata tedesca l'8 maggio 1945. Nel 1944, appena un anno dopo la grande vittoria di Stalingrado, esce il suo romanzo tributo all'impresa dell'Armata Rossa, I giorni e le notti, sulla cui prima pagina si legge «Alla memoria dei caduti per Stalingrado». Il romanzo, tradotto in tutto il mondo, racconta l'epopea della difesa di Stalingrado e narra le vicende dell'ufficiale Babenko e del suo sottoposto Saburov, che difendono la città stremata dall'assedio nazista. L'edizione italiana esce nel 1948 per Einaudi e da allora non è stata mai più ristampata. Nel dopoguerra continua la sua attività di scrittore fedelissimo a Stalin, tanto che il suo grande zelo lo porta a denunciare pubblicamente nel 1949 il collega scrittore Viktor Slovsky, amico di Majakovskij e Pasternak, bollandolo come antipatriottico e antisovietico. Nel 1969 il Corriere della Sera scrive: «Fattosi un nome con i giorni e le notti e messa la letteratura al servizio della propaganda, Simonov si è ritrovato in prima fila negli anni 60 nel gruppo degli scrittori di guerra morsi dalla tarantola della sincerità. I suoi romanzi, I vivi e i morti e Soldati non si nasce, raccontano con spregiudicatezza gli abbagli dei generali, le battaglie perdute, i soprusi compiuti dalla polizia nell'Armata Rossa, il sospetto e il terrore che circolavano al fronte e nelle retrovie, quando cadere prigionieri dei tedeschi era considerata una forma di viltà. Lo stile è spesso greve, ma il desiderio di verità che lo anima sembra autentico». Simonov muore a Mosca nel 1979. L'importanza di Stalingrado per la cultura russa è evidente anche nelle diverse fasi che la rielaborazione della sua memoria ha vissuto a seconda delle trasformazioni politiche e sociali che hanno accompagnato gli ultimi 80 anni di storia russa. È ancora Andrea Borelli a spiegarcelo, delineando il percorso della memoria dallo stalinismo ad oggi. durante l'esperienza sovietica è anche cambiato il modo di percepire l'esperienza della Grande Guerra Patriottica e quindi anche le pagine più buie, quelle più complesse e così via. Se tu mi chiedi, e allora ti dico riferimento allo stalinismo, allora lo stalinismo, diciamo, gioca sul mito della Grande Guerra, però al contrario di quello che magari si potrebbe pensare, non lo eleva a mito principale della propria narrazione politica, di regime, di propaganda, perché rimane comunque lo stalinismo legato al mito della rivoluzione. Tra l'altro, come è noto, la parata militare che si faceva ogni anno era quella di novembre, no? Per celebrare la grande rivoluzione d'ottobre. Invece il 9 maggio, a parte nel 1946, poi non si organizzò più nulla, tant'è che a un certo punto non fu neanche più giorno festivo, ritorna a essere giorno festivo solo poi successivamente. E quindi, diciamo, durante lo stalinismo c'è ovviamente una certa enfasi anche sulla Grande Guerra Patriottica, però Stalin è preoccupato, diciamo, di essere messo in ombra dai generali che hanno vinto la guerra, dai marescialli che hanno vinto la guerra, e quindi non esercita un certo controllo su quel tipo di memoria. E perciò è una memoria che poi emerge solo successivamente, quello che tu poi mi chiedi, rispetto alle devastazioni materiali, rispetto alle sofferenze, rispetto a quella che poi la guerra era stata, perché era stata una tragedia nazionale, parliamo di milioni di morti, devastazioni e così via. Ecco, queste sono cose taciute dal regime e che vengono conservate nelle memorie individuali dei cittadini sovietici, che però non hanno uno spazio pubblico dove esercitare questo tipo di memoria, perché ovviamente siamo in un regime totalitario dove, come dire, la memoria è, tra virgolette, lo spazio memoriale è controllato, però ovviamente sono memorie che rimangono individualmente, che emergeranno poi solo successivamente, in particolare sostanzialmente dagli anni Ottanta, e quindi poi con la glasnost, la perestroica, riemergono queste memorie del trauma che era stato la guerra. Altrimenti nello stalinismo ovviamente è una mitizzazione, anche le pagine più oscure, più difficili, più complesse vengono invece messe da parte, potremmo dire. Già c'è il periodo di Khrushchev e quindi del disgelo, che aveva portato un primo riemergere di memorie individuali e collettive non allineate alla narrazione ufficiale che era stata propria dello stalinismo, però è una stagione importante ma comunque breve e soprattutto, diciamo, con delle contraddizioni di fondo, perché poi Khrushchev non è che favorisce il riemergere o l'apertura verso una società più libera, è una destalinizzazione, come si sa, molto ben controllata e gestita dall'alto. Invece la glasnost è qualcosa che parte anche lì come rivoluzione dall'alto, perché la vuole Gorbaciov, ma poi è incontrollata, e quindi è la società civile sovietica che, dove esplode proprio un momento di confronto rispetto al passato sovietico, e il regime lì, anche perché sceglie, perché Gorbaciov sceglie di non, come dire, di togliere poi la censura, per esempio, tutta una serie di questioni, però non riesce nemmeno a gestire quel dibattito, e allora è il momento in cui, sarebbe da dire, finalmente riemergono quelle che erano state le memorie individuali di un evento traumatico. Perciò, diciamo, la mitizzazione della Seconda Guerra Mondiale in Unione Sovietica paradossalmente cessa quando si può parlare più chiaramente, ovviamente, no, di quello che effettivamente è stata la guerra mondiale, per cui ci si rende conto che è stato soprattutto un grande disastro per la nazione e per l'Unione Sovietica, da cui evidentemente si è sopravvissuti, però non ci si era mai posta la questione, almeno pubblicamente, dei costi di quella vittoria. Ovviamente, come è ovvio, come gli ascoltatori sanno, quando si mitizza qualcosa, il mito evidentemente deve tenere fuori dal discorso le questioni negative. Ecco, allora invece lì, dagli anni Ottanta, c'è la libertà necessaria, indispensabile per poter parlare apertamente di quegli eventi, ed è soltanto lì appunto che si può fare, ed è lì che avviene. Quei discorsi che erano stati fatti alla fine degli anni Ottanta, anche ancora inizio anni 90, per cui era vista come una grande tragedia, diventa poi invece di nuovo un momento fondativo della grandezza della Russia, un momento, diciamo, di autolegittimazione non solo del potere ma anche delle aspirazioni della popolazione, del paese e così via. E questo è un'operazione, e quindi rispondo anche alla tua seconda domanda, è un'operazione chiaramente di legittimazione politica che il regime di Putin fa, che però non è semplicemente, non deve essere intesa come operazione dall'alto, ma anche sulla base della sua unione con dei sentimenti popolari, ampiamente diffusi nella popolazione russa, per cui non è Putin che deve convincere, diciamo, buona parte dei russi che i sovietici hanno vinto la grande guerra patriottica e che quello è un grande gesto da ricordare, lo pensano da soli i russi. Ecco, i russi non hanno bisogno di Putin che gli dice guardate che abbiamo vinto la guerra e siamo un grande popolo. Quella è, come dire, è un qualcosa che fa parte di una tradizione culturale che si è sedimentata negli anni dell'Unione Sovietica, che il regime di Putin ha utilizzato per fondare una nuova legittimità che si basa tutta sull'idea della grande guerra patriottica. Quindi oggi in Russia è un elemento centrale nella definizione dell'identità post-sovietica russa. È infatti l'importanza che ha la manifestazione, la parata del 9 maggio, le manifestazioni in memoria dei caduti della Seconda Guerra Mondiale, o anche se voi pensate a tutte le polemiche con l'Unione Europea, sulle leggi della storia, su quella che per i russi è inaccettabile paragonare l'Unione Sovietica con la Germania nazista. È un tema, diciamo, che per loro rappresenta un pilastro delle politiche memoriali del regime, indubbiamente. A 80 anni dalla battaglia di Stalingrado, Vallun si interroga su come parlare di una guerra passata, realizzatasi però sullo stesso territorio in cui oggi ne è in corso un'altra. Ai tanti interrogativi da cui siamo partiti, quindi, ne abbiamo aggiunto un altro che abbiamo condiviso con le storiche e gli storici da noi intervistati. Come viene usata oggi, nel contesto dell'attuale guerra russo-ucraina, la memoria della battaglia di Stalingrado? Non viene usata tanto la battaglia di Stalingrado, anche se abbiamo visto che per l'inizio, per celebrare l'inizio dei combattimenti che sono avvenuti 80 anni fa, è stato cambiato per un giorno il nome di Volgograd con Stalingrad, però questo avviene già da qualche anno. Viene utilizzata però l'idea della denazificazione dell'Ucraina, quindi provando a fornire una linea diretta e una sorta di legittimazione, perché quella viene vista, la grande guerra patriottica, come la guerra giusta. Qui vi è anche una sorta di shift nella narrazione che viene fatta dalla propaganda russa di oggi, perché qualche anno fa, alla fine degli anni 2000, quando cominciava a esserci il dibattito sulla memoria storica, venne aperto un monumento alla Paklonna Gara, la collina degli Inchini, da cui Napoleone vide Mosca, che è sede del Parco della Vittoria, un monumento in cui vi erano 15 soldati che rappresentavano le 15 repubbliche sovietiche e con la scritta «Insieme abbiamo sconfitto il fascismo». Oggi invece noi assistiamo al punto di caduta di quella che è stata la propaganda, la lettura putiniana degli ultimi anni della grande guerra patriottica, in cui in realtà sembra che ci siano stati solo i russi a combattere, e si ignora, e mi si permetta di dirlo anche dall'altro lato, che vi sono stati 7 milioni di ucraini che hanno combattuto nei ranghi dell'Armata Rossa e delle formazioni partigiane contro i nazisti, e che vi sia stata questa sorta di popolo eroico. Questo è un tipo di costruzione che mitopoietica, ovviamente, su cui credo un redivivo Fulvio Iesi avrebbe molto da dire, e che fa capire anche un po' come è stata la cosmogonia di Vladimir Putin negli ultimi anni. Quando si comincia a parlare di guerre vittoriose, di guerre gloriose, grandi avvenimenti, poi il rischio è che si voglia anche combattere la propria di guerra vittoriosa. Di certo, dall'altro lato, è interessante vedere come gli ucraini hanno risposto a questo tentativo di appropriazione indebita ed esclusiva della memoria della grande guerra patriottica da parte putiniana. Nei primi giorni di guerra, ad esempio, venivano schierati le foto dei vari veterani di guerra con tutte le loro decorazioni, che si trovavano ad affrontare le bombe russe nelle loro case. Tra l'altro vi è stato il caso di uno dei veterani dell'antifascismo ucraino, ebreo deportato a Buchenwald di Kharkov, che è stato ammazzato da un missile russo nel marzo scorso, e questo spiega molte cose. Chiudiamo qui il nostro speciale Al Volga non si arriva, ringraziando tutti gli storici e le storiche che ci hanno aiutato a raccontare questa storia, perché la memoria è un campo di battaglia e noi non vogliamo essere in ritirata. Stalingrado è il simbolo di chiunque si sia dichiarata antifascista almeno una volta. Risuona nelle canzoni, nelle battute da bar, nella memoria storica, civile e militante. Vallun è il programma di storia di Radio Città Fujiko, fatto da Frey, Debs, Alessia, Lara e Olga. Le quattro puntate dedicate a Stalingrado sono uno speciale che abbiamo chiamato Al Volga non si arriva, costruito anche grazie al prezioso lavoro di Jacopo Lorenzini. Se gli storici del futuro vorranno capire quale fu il punto di svolta della guerra, dovranno arrivare in quel tratto del Volga, immaginarsi un soldato seduto ai piedi della roccia e provare a figurarsi cosa stava pensando. Con questa citazione di Vasilij Grossman vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima domenica alle 11, oppure in podcast su radiovanlun.info. Fame e macerie sotto i mortai, come l'acciaio resiste la città. Siete lastricate.